Posso finire? Prego, continui, certo, esimio. La mia presentazione. Allora, io ho avuto anche l'onore di salire sul palco per ben 8 volte con le tette biscottate, di presentare le loro serate. E saluto anche le mie amiche che sono qui, le Alga Combo, che sono il mio gruppo punk preferito. Grazie mille, veramente, Alga Combo. Ciao Alga Combo. Allora, prima di iniziare, come al mio solito, vorrei introdurre, mi sono permessa di scrivere una tesina sull'argomento del coxo di questa sera, e cioè la salute. E in particolare i dolori dell'articolazione dell'anca, anche detta coxo femorale, che se non curati in tempo possono portare all'artrosi anche grave. Ma anche grazie all'interazione e le proprietà dell'alga kombu, che è ricca di potassio e fosforo, è molto utile per rafforzare il sistema immunitario. E quindi io sono emozionatissima di avere qui insieme all'esimio dottor Essa e Andy Investe W giovedì le dottoresse Micia, Linda e Paola, che ci parleranno proprio squisitamente dell'alga kombu, che io uso anche molto spesso per insaporire la soia. Esatto. Anche i ceci? Ma lo sapevo. Bene, allora, per introdurci meglio nel discorso, riprendere un po' le fila, poi linkando i nomi alle voci di queste specialiste, partiamo subito con un brano? Partiamo. Che potrebbe essere tipo Bestia Inquieta, che è proprio un brano da Alga Kombu, giusto? Vai. Vado? Partiamo. We'll be right back. Ed eccoci le super mega galattiche ospiti della 130esima puntata di Coxo Spaziale. Sono in realtà non proprio delle dottoresse, ma forse anche sì, sono comunque tre delle quattro componenti del gruppo Alga Kombu, che oltre a far bene alle ossa e alle articolazioni tende anche a romperle, perché qui si poga, ragazze e ragazzi. E giovedì, salve, è ancora lei? No, ciao Fedra, scusa, sono tornata e non lo so, Andy, mi ha mandato giovedì. Ma io non c'entro niente, cioè ero rimasta chiusa nel bagno, ma chi mi ha chiuso? Oh, cioè stavo sbattendo la porta, nessuno mi sentiva, scusa. Lo so, Andy, giovedì purtroppo l'ho accompagnato io qua, insiste. Te lo porti appresso. Me lo porto appresso, sono tre settimane che insiste da quando ho iniziato la trasmissione, che vuole venire qua. L'hai sennò chiuso, non mi sempre lascia in bagno tu, sto giro ti ha chiuso lui. Ma okay. Allora, per recuperare facciamo così, un bel incarico a sorpresa che ti riporrà sul piedistallo della co-conduzione. Grazie, tossica. Fedra. Introduci e presentaci le nostre super mega galattiche ospiti. Allora, oggi siamo felicissime di avere in radio le Alga Kombu. Oh yeah! Non troppo così sul microfono, perché sono coxi tuoi. Bene, vedi che hanno subito capito lo spirito le Alga Kombu. Poi ci sarà anche un po' da muovere il microfono un po' così verso di loro. Però piano, che fa delle cose strane. Va bene. Un microfono. Continuiamo. Allora, scusate l'interruzione. Ok, e le Alga Kombu sono un gruppo punk, correggetemi se sbaglio, anzi poi ditemi esattamente come vi definite, perché poi punk vuol dire tutto, vuol dire niente. Sì, anche perché Coxo Spaziale vuole essere un programma che trasmette, insomma, che diffonde cultura, è un po' pedagogico sui temi che attraversa. Ah, è pedagogico? Non lo so. Ah, pensavo. Che palle. Vero? Se me lo dicevi prima non venivo. Hai ragione. Quindi qui potrebbe starci un bello, ecco, potrebbe starci questo. Economia domestica, ma era ma era un jingle che mi frega sempre, perché in realtà è l'angolo della menzione adesso. Vabbè, ma non c'entra. Allora, lascio subito la parola alle Alga Kombu. Chi vuole parlare? Linda, che è già pronta. No, che è già pronta a indicare dall'altro lato del tavolo. Vai, Micia, vi presento la cantante. Anzi, anche le altre ogni tanto cantano, quindi... Vabbè, Micia canta e suona la chitarra. La urlatrice principale. Ah, diciamo. Ok. La urlatrice principale Micia ci definirà il gruppo. Diciamo punk di attitudine. A noi piace definirci the gender. Sì, the gender. Sì, ci piace stare, cioè, un col po' the davanti. The gender, sì. Nel senso che ci piace un po' attraversare tutti i generi che mastichiamo. Senza stare in uno, senza chiuderci dentro in uno una definizione, come, dipende un po' come ci svegliamo al mattino, poi insomma l'attitudine punk. E il brano che abbiamo ascoltato prima e che vi ha un po' introdotte ai coxonauti che Bestia ci stanno ascoltando, esatto. Mm. È uno degli ultimi brani o sbaglio? Sì, è uno degli ultimi, sì. Cosa sta succedendo nell'ultimo periodo per le Alga Kombu? Abbiamo finito di registrare da poco questi cinque pezzi che ci stavamo masticando. Ma è un inedito, scusa se ti interrompo. Sì, è un inedito. Quindi abbiamo sentito un inedito, hai capito, Fedra? Effettivamente, sì, li stiamo presentando qua senza ancora essere usciti. L'abbiamo registrati al No Way Studio da il nostro carissimo amico Mickey Grug. Grande Grug, che ringraziamo e baciamo, perché con quattro scatenate come noi ha fatto un lavoro veramente superbo. Sì. Ciao Grug. Nulla, insomma, ve le presenteremo, si vous plaît, durante la serata. Cioè, capito che scoop, Fedra, non uno dietro posso l'altro credere. Questi ospiti che presentano inediti, un'emozione unica, coxica pienamente. Ma vogliamo dire qualcos'altro della formazione, di come nascete? Dunque, nel lontano 1900 veniamo dal mare esatto, dal mare. Essendo alghe. E nel mare c'è un sacco di potassio, di sali minerali, sostanze. Sì, diciamo che ci siamo incontrate, rincontrate alla fine del 2013, perché comunque ci conoscevamo già, avevamo anche già un po' suonato insieme in precedenti esperienze. Alla Carnegie Hall, leggo nella vostra... Anche alla Carnegie Hall, sì, abbiamo occupato praticamente... tenendo in ostaggio tutta l'orchestra. Ma senza ucciderli comunque. Chiaramente senza ucciderli, ma anzi, contro la violenza. Rivitalizzandoli, esatto, con... che scherzi. Con il loro potassio. Con una grappa Ponticelli. pure, che pure quella aiuta, diciamolo chiaramente. Allora, facciamo così, sentiamo un altro brano di quelli nuovi. Vi va? Che volete sentire? C'è un bel Clito che allora Clito, se no potremmo fare un preambolo su Clito. Lo vogliamo fare? Sì, facciamolo, tocca farlo, perché è un pezzo che abbiamo scritto per Atlantide. Ah, insomma, diciamo che avendoci strappato un pezzo di cuore con lo sgombero di Atlantide, noi abbiamo reagito così, diciamo, anche così, cioè dedicando comunque un pezzo a quella che pensiamo sia stata e continui ad essere una realtà molto molto importante per Bologna e non solo. E allora, dedicato ad Atlantide. Atlantide ovunque! Che riemerga. Al laboratorio smascheramenti. We love you. Le super mega galattiche ospite del 130° COX sono le Alga Kombu. La... Intergalattiche, dai, non esageriamo, intergalattiche. No, super mega, se permetti, scusami, ma la coxo riferimento sono io, quindi okay, mega galattiche. E invece la super mega co-conduttrice occasionale Andy in veste W, Joe, è qui che mi continua a spostare il microfono, lascialo lì il microfono. Ah, ok, ma quindi se lo lascio lì e parlo va bene? Ma infatti, sì che va bene, va benissimo. Vabbè, lo sai, la mia ansia della radio. E comunque, però, ansia o non ansia, vai benissimo come ti viene? Vabbè, sì, va benissimo. Okay. Adesso intervisti le nostre super mega galattiche ospiti. Ok, allora siete pronte? Siete concentrate? Mettete le cuffie? Avete, questa è la prima domanda, adesso metto il timer. Vinciamo qualche cosa? Se ovviamente, ovviamente. Qua, lo diciamo dopo. Andy vincete. Al 333 180 94 94 potrete, se rispondete ai quesiti della Sfinge Gioica, vincerete un sacco di premi, ricchi premi e cotillon. Non si è ancora capito quali, però di sicuro qualcosa si vince. Perciò preparatevi, io tengo il tempo. Allora, come questa. Bene, Linda vuole rispondere, prego. Prego, Linda. Rispondi, dimmi. Ok, grazie, no, benissimo, abbiamo capito. Grazie, sì, in effetti è giusto, lo pensavo anch'io. No, ti volevo leggere il pensiero per sapere quale domanda mi stavi facendo, capito? Sì. Mi stavo un attimo impegnando, poi mi ha fermato. Ma è una parlata toscana questa? Sì. Ah. Sulle origini dell'alga. Le alghe vengono un po' da tutte le regioni, mi sa. Sì? Varie. Sì. No? Diverse. Sì, sì. Dai, ditecelo. No, sono quelle bretoni. Bretoni? Bretone. Ma è vicino Prato? È vicino a Prato. C'è un'alga in particolare che viene dalla Puglia. Che salutiamo tanto, che è Ale, la nostra chitarrista. Che è l'alga assente. È l'alga assente. Perché è in duplicazione. Esatto, si sta sdoppiando. Giustificato. Si sta sdoppiando e la salutiamo tanto. Alghe fanno così. Non so se poi ci sta ascoltando, speriamo di sì. No. Scelgono un posto. Mal che per vada, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com il link per scaricare, riascoltare la trasmissione, vedere tutti i link, le splendide foto che questa volta faremo. Vero, super ha già maniera. Fatto Linda, sì, questa volta, cioè, ma ne facciamo ancora. Tante ne di avremo più. Ancora, tanto. Ne avremo 100. E ancora. Quindi abbiamo un'alga bretone, bretone di Prato, un'altra invece senese di Siena, sì. O sbaglio, e l'altra io non lo so. Io Veneta. Veneta. Veneta. Non però sembra, però sono Veneta. Ma di dove? Di Verona, provincia. Ok. Però non parli veneto per niente. No, non parlo in veneto. Ma come mai? In veneto ma sta dire. Perché guarda, le anche mi muovo di mare in mare. Ma perché il radio non può bestemmiare, sai? Ah, ok. No, perché sono veneta anch'io, sapete? Però effettivamente dalle parti delle città con la V, a parte Venezia, quelle un po' più nell'entroterra, gli accenti non si capisce bene dove vadano e sembrano tutti strani anziché veneti, che per me è un complimento, perché io la parlata veneta non mi piace tanto. Tu l'apprezzi? Io non mi interessa. Apprezzo solo le bestemmie. Solo le bestemmie. Sì. Che effettivamente. Che in effetti è una comunque tradizione e originalità, cioè, veneta. Ho una domanda anch'io. La ricchezza di questo, non l'ho ancora fatta, di questo turpiloquio interregionale con questa calibratura veneta, che nella ricerca drammaturgica delle Alga Kombu ha una pertinenza oppure è qualcosa che rimane più alato? La ricerca del turpiloquio. Diciamo che ci impegniamo nei testi per cercare di turpiloquiare, però. Vado faccia al muro, che è la punizione classica del conduttore poco pertinente. La prendeva sempre W. Pasquini originale, ma adesso non c'è più, la prendo io. Poverina, mi spiace. No, quando tocca. Lancia a te la palla, fagli la domanda giù, la domanda intelligente. Dai ragazzi, allora, questo quindi uscirà tra poco un LP, EP con le vostre canzoni nuove. EP, perché sono 5 canzoni, 5 pezzi. E questo quindi è il vostro secondo comunque EP, se non sbaglio. Perché abbiamo fatto una demo cioè, siamo uscite con una demo punk rock in cassettine fresche fresche da gustare. Quando? Un anno e mezzo fa. Ok. Tutto in finto inglese. Sì, ho sentito. Adesso abbiamo fatto questo passaggio. L'unico che capisco io comunque, perché il vero inglese non interpreto sempre male. Quindi, ma poi che palle, già, infatti, veramente. No, grande, facevate un inglese Gramlow? Sì? No? No, cosa? Un inglese. Sì, originale Alga Combo. Sgrammaticato, diciamo così. Un po' sgrammaticato. Ma che poi, fra l'altro, forse per la seconda parte della trasmissione potremo sentire un brano di quelli, sì, per farci un'idea. Sì, sì, per i fan che vogliono sentire. Ve lo facciamo canzoni a cappella. Sentiamolo subito. Ah, no, da subito no, perché come vedi il tempo è quello. Allora, volevo chiedere un'altra cosa, posso, Fedra? Sì. Allora, quindi prima cantavate in inglese e adesso cantate in italiano, cioè. Sì. Ah. Come mai? Perché quando devi esprimere determinati concetti, penso che la lingua madre sia il veicolo migliore, diciamo così. Anche se magari è meno eufonica, ma anche secondo me per un cambiamento nella musica, perché i primi pezzi, essendo punk and roll, logicamente l'inglese si adattava bene, no? Per, sai, questioni di metrica e via dicendo. Mentre invece punk and roll, questa svolta permette di, insomma, di articolare un po' meglio l'italiano senza fare le rime cuore amore. E vai! Sono quelle che mi pietrificano, ah, e quindi insomma, invece diciamo, quelle che le amo. Poi subito dopo Sanremo è proprio un respiro di sollievo sentir dire una frase del genere. Grazie. Forse anche un po' per allacciarci alla tradizione dei vari gruppi hardcore italiani, che, cioè, almeno dal mio punto di vista, io apprezzo molto e riescono a veicolare molto, molto messaggio e contenuto. Insomma, cantare in italiano in qualche modo ti libera di più. È più immediato. È più immediato. Essendo in Italia, sì. Ma al volo qualche nome di qualche gruppo altro riferimento che vi ha aiutato a costruire questo immaginario comune del gruppo Alga Combo? Avete dei riferimenti? Ma in realtà cover non ne abbiamo mai fatte. Ognuno aveva un po' il suo background, quindi andavo in studio, ognuno portava magari un arrangiamento, poi si mischiava tutto, non è che ci siamo focalizzate, magari seguiamo un gruppo piuttosto che un altro. Noi andiamo da John Coltrane a Pupo. Meraviglia, senza la rima cuore amore, rima, grandioso. Cuore. E su questo io lancerei il cuore di ogni puntata del Coxo da tre mesi a questa parte. Ovvero la pubblicità delle 7:30. Coxo sacrale. Coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale, coxo spaziale. Non ho sentito niente, Andy. Le leggiamo qua. Sì. Ah, ok. Bentornati, 130ª puntata di Coxo Spaziale. Oh, yeah, in diretta su Radio Città Fugito. Ecco, quando queste cose non si fanno, me l'ha detto il direttore, non si fanno. Oh. Cioè, ricominciamo. 130ª puntata di Coxo Spaziale sulle frequenze di Radio Città. Un commento più sobrio. Che meraviglia, che meraviglia. È splendido essere qui con le Alga Combo. Moderatamente. Ecco. Ti ho vista, Andy Jo, ti ho vista. Cosa? Nulla. Niente. Cercavo il mio monocolo. No, allora ragazze, eravamo arrivate, ci doveva essere un momento un po' X, ma ci sarà tra 5 minuti quella cosa che c'è dopo le pubblicità di solito, te la ricordi, Andy, in veste W? Chiaro, perché io ho studiato all'Accademia di Oxford. Allora, rimandando quella cosa tra un po', ritorniamo nel focus della trasmissione, che sono le Alga Combo. Abbiamo detto che sono tutte italiane, a parte una un po' breathone. Questa mitologia non c'è qua, è a duplicarsi a casa, a parte quella, le altre sono tutte, lei pure è metà italiana, tutte le altre sono tutte italiane, ce ne sono sparpagliate per tutte le regioni, anche se sembra che ce ne siano di più in Toscana perché c'ha un accento che è contagioso. Due sono toscane. Ah. Ma perché anche l'amica è toscana? Sì. Ah, ma io non lo sapevo. Ma toscana di dove? È quasi ligure, guarda. Ah, meraviglia. Che bei posti, che Luca. Bei posti. Sì, buonanotte. Pisa. Dove ci sono tante alghe poi da quelle parti. Lo dico. Non ce lo dice. Non ce lo dice. È imbarazzata, tenta di aprire. Sarà uno scoop per una delle prossime puntate. Detto questo, abbiamo anche scoperto che da quest'anno, forse da qualche mese in realtà, dall'anno scorso, ma nelle ultime produzioni hanno cominciato a cantare in italiano. Adesso probabilmente potremo ascoltare che cosa cantavano prima, questo inglese che è un inglese combico, combuco, giusto? Sì. Perciò io abbasso un attimino il volume che... Facciamo sentire Baby Bomb? Vai. Andiamo di Baby Bomb. Hai messo stop e pause? Stop and go. Stoppala. Stoppa del qua. Partila. Baby Bomb. Ok. Cantata da Ale e Paola. Vai, vai. No, non è andata. Perché non si sa? Non è andata. Ma la play? Ah, c'è play. C'è play. Però non sta playando. E perché? Perché? Non lo so. È attaccato tutto. Ma facciamo a cappella. Prova a ricaricarla. No, niente, c'è un flash blocker. C'è un flash blocker, non è mica colpa nostra. Cioè. Caro Paolo Patruno, ti stiamo pensando con molta intensità. Allora, mi rimetti in play dall'altra parte, così almeno il tappeto sonoro ce lo risentiamo, ce lo riabbiamo. Intanto faccio il tappeto. Ma non sembra molto punk. Infatti era punk and roll, quindi è una melodia un po' più, no? Che sembra una melodia più intima. Quale? Quella che stavo facendo, sì. Io così? Vabbè, ma mica era la sì, canzone. Vabbè, ma era ognuno ha le sue influenze. Poi dopo alla Fausto Papetti. Quindi com'è che era da Pupo a Fausto Papetti? No, era John Coltrane. Benissimo. Allora potremmo, visto che ci è andata male con l'inglese, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete tutti i link di riferimento per andare ad ascoltare anche a ripescare le alghe combu, le alga combu, che, aiutami Andy Joe che mi sto impaperando. Le alga combu. Perfetto, con la K. Alga combu, resiste alla risacca. Moderatamente, giubilo moderatamente. Esatto. Da domani ci saranno lì i link per andare a visitare le loro pagine nei social media, riascoltare le vecchie edizioni. Ma soprattutto andate ai concerti, tipo il prossimo concerto. Quando è? Mo non c'è, sta a vedere. Riot Fest. Dove? Poi io l'ho segnato in agenda. Ok, sì, probabilmente a Trento, in quel di Trento, ad aprile faranno un festival. Non è ancora uscito il programma. Quindi però... super scoop, scoopissimi alla 130esima volta di Coxo Spaziale. Esatto. E poi così si fa anche una bella gitarella fuori porta. Esatto, dai, Trento sono solo un paio d'ore, quanto? Non è tantissimo. Vai, si va, trasferta con le alga combu. E adesso per riprendere le fila del discorso io andrei con una grida. Vai. Sì, vado? Vai. Vado. In italiano. Sì. Il paesaggio dell'essere di passaggio in questo strano patire. Rieccoci tornati per la 130ª puntata di Coxo Spaziale con le super mega galattiche Alga Kombu. Super mega spaziali, va bene, giusto perché siete voi. e poi con la super mega galattica co-conduttrice occasionale per il mese di febbraio, Andy Invest W Joe. Che a questo punto tu lo sai che cosa c'è ora perché hai studiato. Sì, ma ho già dato i compiti alle mie amiche Alga Kombu. Davvero? Allora anche loro sono partecipi e allora io non posso far altro che partire con questo. L'angolo della menzione. Allora, giovedì 18 alle ore 22 il karaoke Trash Trash a cura della nostra Andy Joe ai Ganesh Disco Bar. È il karaoke più pazzerello di Bologna. Una console, uno schermo, una grande gabbia dove potrete esibirvi nelle canzoni e nei balletti più folli e trash, quelli più esagerati che mai. Venite con vestiti e parrucche perché le performance più belle saranno premiate. Venerdì 19, ovvero domani, ore 19, Chip porta il libro da squadro. Vi incontriamo nello spazio di Squadro Edizioni Grafiche in via Nazario Sauro 27B, Bologna, per farvi conoscere la pubblicazione che documenta i primi 3 anni di lavoro di Chip, Street Poster Art. Sempre venerdì 19, dalle 19, Bifavolosa Party Benefit, Barattolo. Sostieni la campagna di autofinanziamento lanciata dal Movimento Identità Transessuale in vista del 6° Consiglio TGEU Transgender Europe, che porterà a Bologna dal 2 al 5 giugno 2016 più di 300 delegazioni trans internazionali. Tra uno spritz e un vodka lemon, DJ set di amiche e amici, potrete acquistare la spilla favolosa e sostenere il MIT. E alle ore 21, sempre di venerdì 19, Tenebra al Teatro Ridotto. La nuova stagione del Teatro Ridotto di Lavinio di Mezzo si intitola La finestra sul cortile, scorci di teatro in regione, ed è focalizzata sui gruppi teatrali del territorio e sulla molteplicità dei loro linguaggi creativi. Il primo spettacolo in cartellone è Tenebra del Teatro Nucleo. E noi abbiamo niente po' di meno che Lina Della Rocca, la co-direttrice artistica del Teatro Ridotto, che ci parlerà proprio di questo lavoro che inizierà la rassegna del 2016. Lina, ci sei? Chi sono? Eccomi. Eccola, ciao Lina. Allora, Teatro Nucleo, cominciamo con uno dei gruppi più fondamentali per il nostro territorio, per la regione, no? Sì, direi proprio che sono la nuova generazione del Teatro Nucleo. Ottimo, novità nella tradizione, raccontaci qualcosa. Guarda, quando ho visto lo spettacolo sono stata colpita dalla freschezza degli attori e dal clima giovane. Lo spazio è pieno di giovani e questa è la prima cosa che mi ha entusiasmata inizialmente. Lo spettacolo è da vedere perché si vedono due attori in scena e un musicista dal vivo che credono tanto in quello che fanno. E Tenebra, io non, sinceramente non avevo neanche letto la scheda di presentazione, sono andata lì proprio per curiosità, ero stata invitata insistentemente e devo dire che lo spettacolo mi ha emozionato. Non posso dire troppo su questo, posso dire soltanto che è un dramma pop ispirato a Cuore di Tenebra di Conrad e questi due attori e questo musicista narratore sagomano il conflitto tra i due protagonisti del romanzo. Sta scrivendolo in una vaga contemporaneità e ci riescono assolutamente molto bene. Io, dopo che li ho visti, sono corsa da Renzo, il nostro direttore artistico, e ho detto dobbiamo farlo assolutamente. Li abbiamo chiamati, hanno accettato, siamo contenti. Oggi c'è stata la conferenza stampa veramente con tante persone, tanti giovani presenti, siamo contenti e quindi ci aspettiamo domani, una serata fantastica. Quindi di sicuro ci veniamo domani per Tenebra e poi comunque ci sentiremo ancora sulle frequenze del Coxo per avere nuove indiscrezioni, curiosità sui prossimi spettacoli. Io vi ringrazio. Grazie tantissimo. A te Lina, ciao. Ciao. Ciao, ciao, a presto. E abbiamo un'altra, l'ultima menzione, quella di lunedì, giusto? Lunedì 22 alle ore 20 il femminismo viene mangiando al Circolo Anarchico Berneri. Che era giusto davanti quel posto che dicevamo prima, eh? Sì. Mm. Erano un po' quelle due porte. Sono un po' quelle due porte. Mm. Il battere delle forchette sui piatti sarà la musica che sosterrà il collettivo femminista Mujeres Libres. Carla Lonzi ha scritto che da qualche parte il femminismo è pratica. Aggiungiamo noi che mangiare insieme è pratico. E poi che fai se ti trovi di fronte a un macho neoliberista o all'avvincente dibattito sull'utero in affitto? Rischi il calo di zuccheri? Direi che lunedì mai. Ci sta. Ma invece adesso cosa facciamo? Sentiamo un altro brano oppure lo sentiamo dopo in chiusura? E andiamo ancora, perché c'erano ancora domande, c'erano ancora questioni da chiarire. C'era anche da sì, tipo ad esempio di quest'ultima canzone volevamo parlare. Allora non ne mando un'altra, se però c'è da mandane chiarire. Un'altra e poi se ne parla tutti insieme, facciamo direi, no? Vabbè, facciamo un briefing. Natura morta oppure cultura dello stupro. Cultura dello stupro? Andiamo con quella. Cultura dello stupro. E qui sulla nota di questo brano io non vedo l'ora di venirvi a sentire dal vivo, veramente. Grazie, aspettiamo. Andy, grazie per aver portato qui Alga Kombu, è stato meraviglioso averle come protagonista del 130esimo Coxo e spero che tornino ad aggiornarci. Però non è ancora finita la nostra puntata, abbiamo ancora occasione per approfondire la realtà, esatto, delle nostre ospiti. Ma facciamo parlare direttamente loro, raccontateci di questa canzone e quello che volete voi, non so. Vogliamo un po' più in generale come nascono i loro brani, gli spunti, le necessità, forse anche all'origine di come vi siete incontrate, del perché state insieme come gruppo. Perché ci vogliamo un sacco bene. No, cuore amore avevamo detto di no, dai. No, ti posso raccontare com'è nato questo pezzo, ad esempio, a cui teniamo moltissimo. È nato perché il mio ex vicino di casa molestava la moglie. Io sentivo continuamente queste urla e una sera mi sono ritrovata a battere i pugni contro il muro per farlo smettere. Allora lì ho cominciato a pensare ai muri di paura anche che ti impediscono di intervenire nelle questioni, perché culturalmente pensiamo che, no, tra moglie e marito non mettere il dito, insomma tutte queste cose che ti fanno girare dall'altra parte, favorendo la cultura dello stupro, ok? Quindi diciamo che da questo episodio in 10 secondi ho scritto di getto proprio questo pezzo, perché invece penso che sia molto importante che siamo tutte e tutti consapevoli del fatto che ognuno di noi può fare qualcosa nel piccolo quotidianamente, perché poi purtroppo ti senti sempre impotente, no? Rispetto a quello che succede nel mondo e dici che cosa posso fare io, e magari invece con anche dei piccoli gesti puoi riuscire a fare la differenza, a intervenire nelle cose. Che dire, fra poco, il 1° marzo ad esempio, ci sarà la giornata dei migranti, che sembra che non c'entri niente, no? con le questioni di genere, però io penso che l'altra sera stavo guardando il film di Trumbo, uno degli sceneggiatori più famosi di Hollywood, e a un certo punto nel film si sente questa frase che dice: i diritti civili vanno mano nella mano, se una mano molla le altre sono... La catena si scioglie. E quindi cioè, penso che sia molto bella questa cosa e credo che tutte dovremmo averne consapevolezza, cioè non lasciarci usare per una caramellina, come sta avvenendo in questo periodo, no? Anche con tutta la bagarre del Cirinnà, rispetto poi a un governo che comunque magari premia da una parte e nega diritti dall'altra, quindi E comunque sì, l'avevi detto all'inizio, la questione del che per cultura siamo portati a non a farci gli affari del marito, della moglie, del marito, e sempre per cultura siamo portati a segnare le distanze, quindi è dalla cultura, è la radice profonda che ci tiene tutti insieme su un dato territorio che deve essere rinnovata di un sacco di potassio. Grazie Alga Kombu. Grazie molto Alga Kombu, e veramente non vediamo l'ora di venirvi a vedere con i vostri nuovi pezzi in italiano e anche di ascoltare in inglese, i vecchi brani in inglese combese nel Kombu English. Che insomma, da domani, appena avrò il link, andrò a vedermi anch'io. Il link, per chi non ha il link diretto, lo trovate su www.coxospaziale.blogspot.com. mi raccomando, mandatemi tutti i link che io li pubblico insieme alle splendide foto che sono state fatte stasera, insieme al link per riascoltare questa mega galattica puntata, la 130esima di Coxo Spaziale, che oltre alla super mega galattica co-conduttrice Andy in veste W Joe ha avuto anche una sorpresina che forse È di nuovo qui. Ciao, ti ringrazio, dottor Giovedì. Andy Jo è andata di nuovo in bagno. Allora mi permetto di salutare un attimo le persone a cui più tengo, che sono la mamma e il papà. E volevo dire: mamma, babbo, io non sono queer. Devo ancora capire che sesso essere, però io sono per la famiglia tradizionale, quella che mantiene i figli all'università come me per molti anni, come fanno i miei genitori. Ciao mamma, ciao papà, vive Family Gay. No, day. Ciao. Ciao, ciao, meraviglioso Andy, meraviglioso. Grazie Andy Giovedì. È tornata anche Andy Jo. Mi raccomando, rimandaci anche Andy Oddio, Giovedì. Oddio, scusate, quando... veramente ho dei problemi con di incontinenza. Andy Giovedì, sembra di incontinenza. Purtroppo, come sapete, vivo, cioè come sapete, come io so, vivo con una bambina che mi ha attaccato questa incontinenza cagarella, e quindi ho avuto dei problemi per andare in bagno, e quindi purtroppo Andy Giovedì ha preso il mio posto. Spero che non succederà mai più, mi scuso. No, per fortuna, un esimio tale che ti investe di sostituto non è altro, è tutto super mega galattico, tutto brodo galattico, brodo coxico galattico. Sai che cumbico? Andy Giovedì all'inizio aveva fatto anche la ricerca sul coxo femorale, linkandola col potassio delle alghe kombucha. Veramente? Quindi una, proprio una sottigliezza, una Perché comunque fa l'università da 20 anni, qualcosa immagino che comunque abbia imparato, lo spero per lui. Ma allora è lui o lei? Non lo so, ma i genitori lo sanno? I genitori no, non lo sanno. Ma comunque il concetto di genere è un po' desueto dal mio punto di vista. Infatti siamo qui con le alga kombu che si definiscono the gender. Punk the gender. E che sono state le super mega galattiche ospiti della 130ª puntata del Coxo. Che ospiti del Coxo. Allora ringraziamo Micia Toscana. Ciao. Linda, toscana. Ciao, grazie a tutti. Paola, veneta a sorpresa. e Ale. E Ale in duplicazione. Ciao Ale, ti saluto ciao tanto. Ale, vai ciao. Col bimbo queer. Il nostro futuro triangolista. Avete già deciso quindi che ruolo avrà questo? Beh, poi questo, deciderà, questo. Noi gli faremo delle proposte, poi deciderà. Ok, no, beh, certo, chiaro, sì. Deciderà quale strumento. A quale strumento accedere nella pancia e per quale strumento dedicarsi. Si autodeterminerà, certo.